L'altro giorno, sotto il terzo cristalli dell'auto, non c'era soltanto il consueto volantino che promette prestiti personali da 3 a 15 milioni e senza muoversi da casa. Basta chiedere al telefono l'apposito numero verde, ti mandano il contante entro 24 ore in un pacco e poi lo puoi restituire con comodi versamenti in conto corrente postale. E l'offerta non vale soltanto per dipendenti, autonomi, pensionati, casalinghi e agricoltori, ma anche per dipendenti che hanno avuto dei disguidi. Alla lettera, che è una formula che mi ha sempre lasciato un po' perplesso, nonché abbastanza curioso di sapere se la categoria possano essere assimilati anche ai collaboratori volontari di Radio Popolare, che dipendenti non sono, ma di disguidi ne hanno avuto quanto basta. L'altro giorno non c'era soltanto questa allettante promessa, c'era anche un altro volantino, più sobrio nell'impostazione, meno largo di promesse. Informava comunque che una multinazionale americana cercava signori di appartamenti in zona, varie metrature da proporre alla loro selezionata clientela, garantite tutta la riservatezza e la consulenza gratuita possibili, telefonare al tuo numero per appuntamento. Io l'ho guardato un po', chiedendomi cosa c'era che non andava. In sé la richiesta non era niente di speciale. Se nella nostra città trovar casa non è la cosa più semplice del mondo, specie per chi non disponga di qualche miliardata sull'unghia, le offerte in compenso fioccano. Anzi, a giudicare dal numero di riviste specializzate in edicole ed agenzie che espongono le loro insegne per ogni dove, adesso devono essere più numerose dei negozi di fruttivendolo, più o meno, deve esserci una quantità di persone che sull'altrui necessità di trovar casa campano benissimo. E anzi, comincio a sospettare che il primo passo per rivitalizzare il mercato, come si dice, potrebbe essere quello di abolire tutte queste fonti di reddito. Ma questo non c'entra. Il problema, come mi sono reso conto dopo qualche attimo di perplessità, stava nel fatto che non avevo mai visto una richiesta del genere fatta in persona di una multinazionale americana. L'idea che Bill Gates, o chi per lui, stesse cercando appartamenti nel mio quartiere per proporre alla sua selezionata clientela mi sembrava singolare. È vero che oggi le multinazionali pervadono ogni aspetto della vita economica e se occupano ogni settore, ogni nicchia di qualsiasi mercato, non c'è ragione perché non trattino quello immobiliare. Ma in genere questi affari si fanno in dimensione cittadina, insomma. Chi cerca casa, salvo debiti e eccezioni, lo fa nelle zone in cui è abituato a vivere. Immagino che esista anche un mercato per migranti e giramondo, so che anzi negli Stati Uniti è piuttosto vasto, ma noi siamo ancora un popolo stanziale. È difficile che chi intenda cambiare casa si rivolga a una multinazionale americana. Poi naturalmente ci sono altre considerazioni da fare. E per cominciare, quella di multinazionale americana, per quanto suggestiva, è un'espressione contraddittoria, o sia multinazionali o sia americani. Anni fa era stata avanzata l'ipotesi dell'esistenza dello stato imperialistico delle multinazionali, che poteva far pensare a qualche forma di identificazione di quelle strutture con la potenza imperiale, ma se ben ricordo non era un'ipotesi che ha fatto scuola, anzi l'avevano tutti deprecata e scartata, con più o meno a ragione. È vero che multinazionale americana può essere un modo impreciso per definire una società multinazionale con base in America, ma ciò non toglie che multinazionale è sempre stato un termine negativo. È difficile che qualcuno lo impieghi per autodefinirsi. Lo stesso Bill Gates, di cui sopra, nell'articolo che ha scritto o ha fatto scrivere per protestare contro le note imputazioni a suo carico, in Italia l'ha pubblicato Repubblica il 19 maggio, ha dichiarato che la finalità principale della sua organizzazione è il benessere economico del suo paese, non degli altri. E infine, per concludere l'elenco delle mie perplessità, e infine, il numero di telefono a cui telefonare per chiedere un appuntamento è quello di un geometra di Magenta. Ecco, io non vorrei dare l'impressione di sottovalutare i geometri, categoria che rispetto e stimo e a cui appartengono alcuni dei miei amici più cari, e non ho nulla contro la città di Magenta, che è un eminente centro agricolo e industriale nelle cui vicinanze è stata combattuta una delle battaglie decisive del Risorgimento, ma insomma l'idea che una multinazionale americana che cerca appartamenti a Milano per tramite di un geometra di Magenta mi sembra per qualche verso incongrua. Significa spingere un po' troppo oltre il concetto di globalizzazione. E allora, chi lo sa, può benissimo darsi che la multinazionale americana in questo caso non ci sia per niente e che quel volantino sia opera di qualcuno che a Magenta o altrove ha deciso che presentarsi in quel modo gli avrebbe conferito maggiore attendibilità. Che volete? Ormai siamo arrivati in Europa, tra poco calcoleremo tutto in euro o in eurimo, bisognerà pensarci. Ma l'America è sempre l'America, è il paese della ricchezza, dove tutto è più bello e più grande, le multinazionali. Beh, perché non metterci le multinazionali in fondo? Il termine sarà anche negativo, almeno dal punto di vista di qualche maniaco che si preoccupa di concetti fuori moda, ma dal punto di vista dei soldi e del potere ad essi connesso è molto positivo. Ed è questo il punto di vista che conta, no? Vi confesso che se un giorno trovassi un volantino in cui c'è scritto che una multinazionale imperialista americana cerca signorili appartamenti in zona, non mi stupirei per niente.